c'è il mio metronomo che dice, si sente, gli rientra. Ok, l'ho spento. Ho già abbassato tutta. Ok, e dove lo trovo questo Master Track? Sì, Giantaba. Master Track, Giantaba. Dove la trovo la Master Track? Su Giantaba. No, non sta trasmettendo. Thank you. Thank you. Thank you.